ad alta voce, leggere il Decamerone. Sopravenne appresso che la donna da capo ingravidò e al tempo debito partorì un figliuol maschio, il che carissimo fu a Gualtieri, ma non bastandogli quello che fatto avea, con maggior puntura trafisse la donna e con sembiante turbato un dì le disse: «Donna, poscia che tu questo figliuol maschio facesti, per niuna guisa con questi miei viver son potuto. Si duramente si ramaricano che un nepote di Giannucolo dopo me debbia rimaner lor signore. Di che io mi dotto, se io non ci vorrò esser cacciato, che non mi convenga fare di quello che io altra volta feci, e alla fine lasciar te e prendere un'altra moglie». La donna con paziente animo l'ascoltò, né altro rispose se non: «Signor mio, pensa di contentar te e di soddisfare al piacer tuo, e di me non avere pensiere alcuno. Perciò che niuna cosa m'è cara, se non quanto io la veggo a te piacere». Dopo non molti dì, Gualtieri, in quella medesima maniera che mandato aveva per la figliuola, mandò per lo figliuolo. E similmente dimostrato d'averlo fatto uccidere, a Nutricar nel mandò a Bologna come la fanciulla aveva mandata. Della qualcosa la donna né altro viso né altre parole fece che della fanciulla fatte avesse. Di che Gualtieri si maravigliava forte e se costesso affermava niuna altra femmina questo poter fare che ella faceva, e se non fosse che carnalissima dei figliuoli, mentre li piacea la vedea, lei avrebbe creduto ciò fare per più non curarsene, dove come savia lei farlo cognobbe. I sudditi suoi, credendo che egli uccidere avesse fatto i figliuoli, il biasimavan forte e reputavanlo crudele uomo, e alla donna avevan grandissima compassione, la quale con le donne, le quali con lei dei figliuoli così morti si condoleano, mai altro non disse se non che quello ne piaceva a lei che a colui che generati li aveva. Ma essendo più anni passati dopo la natività della fanciulla, parendo tempo a Gualtieri di fare l'ultima prova della sofferenza di costei, con molti dei suoi disse che per niuna guisa più sofferir poteva d'aver per moglie Griselda, e che gli conosceva che male giovenilmente aveva fatto quando l'aveva presa, e perciò a suo potere voleva procacciar col papa che con lui dispensasse che un'altra donna prender potesse e lasciar Griselda. Di che egli da assai buoni uomini fu molto ripreso, a che nulla altro rispose se non che conveniva che così fosse. La donna, sentendo queste cose, parendole dovere sperare di ritornare a casa del padre e forse a guardar le pecore come altra volta aveva fatto, e vedere a un'altra donna tener colui al quale ella voleva tutto il suo bene, forte in sé medesima si dolea, ma pur come l'altre ingiurie della fortuna aveva sostenute, così con fermo viso si dispose a questa dover sostenere. Non dopo molto tempo, Gualtieri fece venire sue lettere contraffatte da Roma e fece veduto ai suoi sudditi il Papa per quelle aver seco dispensato di poter torre altra moglie e lasciar Griselda. Perché, fattalasi venir dinanzi, in presenzia di molti le disse: «Donna, per concessione fattami dal Papa, io posso altra donna pigliare e lasciarti. E perciò che i miei passati sono stati gran gentili uomini e signori di queste contrade, dove i tuoi stati sono sempre lavoratori, io intendo che tu più mia moglie non sia, ma che tu a casa Giannucolo te ne torni con la dote che tu mi recasti, e io poi un'altra che trovata no convenevole a me ce ne menerò». La donna, udendo queste parole, non senza grandissima fatica, oltre alla natura delle femmine, ritenne le lacrime e rispose: «Signor mio, io conobbi sempre la mia bassa condizione alla vostra nobilità in alcun modo non convenirsi, e quello che io stata son con voi, da Dio e da voi il riconoscea, né mai come donatolmi mio il feci ottenni, ma sempre l'ebbi come prestatomi. Piacevi di rivolerlo? E a me dee piacere, e piace di renderlovi. Ecco il vostro anello col quale voi mi sposaste. Prendetelo. Comandatemi che io quella dota me ne porti, che io ci recai. Alla qual cosa fare, né a voi pagatore, né a me borsa bisognerà, né sommiere, perciò che di mente è uscito non me, che ignuda m'aveste. E se voi giudicate onesto che quel corpo nel quale io ho portati i figliuoli da voi generati sia da tutti veduto, io me ne andrò ignuda. Ma io vi priego, in premio della mia virginità, che io ci recai e non ne la porto, che almeno una sola camicia sopra la dota mia vi piaccia che io portarne possa». Gualtieri, che maggior voglia di piangere aveva che d'altro, stando pur col viso duro, disse: «E tu una camicia ne porta». Quanti d'intorno v'erano, il pregavano che egli una roba le donasse, che non fosse veduta colei che sua moglie 13 anni o più era stata di casa sua così poveramente, così vituperosamente uscire come era uscirne in camicia. Ma invano andarono i prieghi, di che la donna in camicia e scalza e senza alcuna cosa in capo, accomandateli a Dio, gli uscì di casa e al padre se ne tornò, con lacrime e con pianto di tutti coloro che la vide. Giannucolo, che creder non aveva mai potuto questo esser ver, che Gualtieri la figliuola dovesse tener moglie, e ogni dì, questo caso aspettando, guardati l'aveva i panni che spogliati s'avea quella mattina che Gualtieri la sposò, perché recatigliele, ella rivestitiglisi, a piccioli servigi della paterna casa si diede, sì come far soleva, con forte animo sostenendo il fiero assalto della nemica fortuna. Come Gualtieri questo ebbe fatto, così fece veduto ai suoi che presa aveva una figliuola d'uno de conti da Panago, e facendo fare la presto grande per le nozze, mandò per la Griselda che a lui venisse, alla quale venuta disse: io meno questa donna la quale io ho nuovamente tolta, e intendo in questa sua prima venuta d'onorarla. E tu sai che io non ho in casa donne che mi sappiano acconciar le camere, né fare molte cose che a così fatta festa si richeggiono. E perciò tu, che meglio che altra persona queste cose di casa sai, metti in ordine quello che da farci è, e quelle donne fai invitar che ti pare, e ricevile come se donna di qui fossi. Poi, fatte le nozze, te ne potrai a casa tua tornare. Come che queste parole fossero tutte coltella al cuor di Griselda, come a colei che non aveva così potuto por giù l'amore che ella gli portava, come fatto aveva la buona fortuna, rispose: signor mio, io son presta e apparecchiata. E entratasene co suoi pannicelli romagnuoli e grossi in quella casa della qual poco avanti era uscita in camicia, cominciò a spazzar le camere e ordinarle, e a far porre capoletti e pancali per le sale, a fare apprestar la cucina e a ogni cosa, come se una piccola fanticella della casa fosse porre le mani. Né mai ristette che ella ebbe tutto acconcio e ordinato quanto si conveniva. E appresso questo, fatto da parte di Gualtieri invitar tutte le donne della contrada, cominciò a attender la festa. E venuto il giorno delle nozze, come che i panni avesse poveri indosso, con animo e costume donnesco tutte le donne che a quelle vennero, e con lieto viso ricevette. Gualtieri, il quale diligentemente aveva i figliuoli fatti allevare in Bologna alla sua parente che maritata era in casa dei conti da Panago, essendo già la fanciulla d'età di 12 anni la più bella cosa che mai si vedesse, e il fanciullo era di 6, aveva mandato a Bologna al parente suo pregando che gli piacesse di dovere con questa sua figliuola e col figliuolo venire a San Luzzo, e ordinare di menar bella e onorevole compagnia con seco, e di dire a tutti che costei per sua mogliere gli menasse, senza manifestare alcuna cosa a alcuno che ella si fosse altramenti. Il gentile uomo, fatto secondo che il marchese il pregava, entrato in cammino, dopo alquanti dì, con la fanciulla e col fratello e con nobile compagnia, in sull'ora del desinare giunse a San Luzzo, dove tutti i paesani e molti altri vicini d'attorno trovò che attendevan questa novella sposa di Gualtieri. la quale, dalle donne ricevuta e nella sala dove erano messe le tavole venuta, Griselda, così com'era, le si fece lietamente incontro dicendo: «Benvenga la mia donna!» Le donne, che molto avevano, ma invano, pregato Gualtieri che o facesse che la Griselda si stesse in una camera o che egli alcuna delle robe che sue erano state le prestasse, a ciò che così non andasse davanti a suoi forestieri, furono messe a tavola e cominciate a servire. La fanciulla era guardata da ogni uomo e ciascun diceva che Gualtieri aveva fatto buon cambio, ma intra gli altri Griselda la lodava molto, e lei e il suo fratellino. Gualtieri, al qual pareva pienamente aver veduto quantunque desiderava della pazienza della sua donna, veggendo che di niente la novità delle cose la cambiava, e essendo certo ciò per mentecattaggine non avvenire, perciò che savia molto la conoscea, gli parve tempo di doverla trarre della maritudine, la quale stimava che ella sotto il forte viso nascosa tenesse. Perché, fattala si venire, in presenzia d'ogni uomo, sorridendo, le disse: «Che ti par della nostra sposa?» «Signor mio, a me ne par molto bene, e se così è savia com'ella è bella, che il credo, io non dubito punto che voi non dobbiate con lei vivere il più consolato signor del mondo. Ma quanto posso, vi prego, che quelle punture, le quali all'altra che vostra fu già deste, non diate a questa, che appena che io creda che ella le potesse sostenere, sì perché più giovane è, e sì ancora perché in delicatezze è allevata, ove colei, in continue fatiche, da piccolina era stata.» Gualtieri, veggendo che ella fermamente credeva costei dovere esser sua moglie, né perciò in alcuna cosa men che ben parlava, la si fece sedere al lato e disse: «Griselda, tempo è ormai che tu senta frutto della tua lunga pazienza, e che coloro li quali me hanno reputato crudele e iniquo e bestiale conoscano che ciò che io faceva a antiveduto fine operava, volendoti insegnar d'esser moglie, e a loro di saperla tenere, e a me partorire perpetua quiete, mentre teco a vivere avessi. Il che, quando venni a prender moglie, gran paura ebbi che non mi intervenisse. E perciò, per prova pigliarne, in quanti modi tu sai, ti punsi e trafissi. E però che io mai non mi sono accorto che in parola né in fatto dal mio piacere partita ti sii, parendo a me aver di te quella consolazione che io desiderava, intendo di rendere a te, a un'ora, ciò che io tra molte ti tolsi, e con somma dolcezza le punture ristorare che io ti diedi. E perciò, con lieto animo, prendi questa che tu mia sposa credi, e il suo fratello, per tuoi e miei figliuoli. Essi sono quegli li quali tu e molti altri lungamente stimato avete che io crudelmente uccider facessi. E io sono il tuo marito. il quale sopra ogni altra cosa t'amo, credendomi poter dar vanto che niun altro sia che, siccome io, si possa di sua moglier contentare. E così detto l'abbracciò e baciò, e con lei insieme, la qual d'allegrezza piagnea, levatosi n'andarono là dove la figliuola, tutta stupefatta queste cose ascoltando, sedea, e abbracciatala teneramente, il fratello altresì, lei e molti altri che qui vi erano, sgannarono. Le donne lietissime, levate dalle tavole, con Griselda n'andarono in camera e con migliore augurio trattile i suoi pannicelli d'una nobile roba delle sue la rivestirono. E, come donna, la quale ella eziandio negli stracci pareva, nella sala la rimenarono e quivi, fattasi co figliuoli maravigliosa festa, essendo ogni uomo lietissimo di questa cosa, il sollazzo e il festeggiar moltiplicarono e in più giorni tirarono. E savissimo reputaron Gualtieri, come che troppo reputassero agre e intollerabili le esperienze prese della sua donna, e soprattutto savissima tenner Griselda. Il conte d'Appanago si tornò dopo alquanti dì a Bologna e Gualtieri, tolto Giannucolo dal suo lavorio, come suocero il pose in istato che egli onoratamente con gran consolazione visse e finì la sua vecchiezza. Egli appresso, maritata altamente la sua figliuola, con Griselda, onorandola sempre quanto più si potea, lungamente e consolato visse. Che si potrà dir qui, se non che anche nelle povere case piovono dal cielo dei divini spiriti, come nelle reali di quelli che sarien più degni di guardar porci che d'avere sopra uomini signoria? Chi avrebbe, altri che Griselda, potuto col viso non solamente asciutto ma lieto sofferir le rigide e mai più non udite prove da Gualtier fatte, al quale non sarebbe forse stato male investito d'essersi abbattuto a una che, quando fuor di casa l'avesse fuori in camicia cacciata, s'avesse sì a un altro fatto scuotere il pilliccione, che riuscito ne fosse una bella roba. Glossario. Che io mi dotto, se io non ci vorrò essere cacciato. La forma verbale significa temo, ho paura. È la prima persona singolare del presente del verbo dottare, dal provenzale doctar, a sua volta dal latino dubitare. E se non fosse che carnalissima dei figliuoli, mentre li piacea la vita. Carnalissima. Il termine equivale a amorosissima, tenerissima. L'ultima prova della sofferenza di costei con molti. Sofferenza. Il sostantivo significa tolleranza, pazienza. Cacciar col papa che con lui dispensasse che un'altra donna prender potesse. Con lui dispensasse. La frase corrisponde a gli desse la dispensa, gli permettesse. Conoscano che ciò che io faceva a antiveduto fine operava. Antiveduto fine. L'espressione equivale a fine calcolato, obiettivo previsto. Sarebbe forse stato male investito d'essersi abbattuto a un... Investito. Il participio passato di investire vale per accaduto, capitato. La tradizione manoscritta documenta in modo certo che per più di un secolo presso i letterati, più che il Decameron godette di grande fortuna la traduzione latina di una sua novella, La Griselda del Petrarca. Ma oltre al Petrarca vi fu un altro scrittore che utilizzò quasi alla lettera questo testo decameroniano. Si tratta di Giovanni Sercambi, il cronista e novelliere lucchese, che inserì nella sua raccolta di novelle appunto quella di Griselda, intitolandola Demolire Costante. Le novità più grandi riguardano proprio il piano linguistico. Si va da una patina dialettale di tipo toscano occidentale, assai ben riconoscibile, allo sfoltimento di aggettivi e avverbi. Crudele, iniquo e bestiale. Crudele e bestiale. Tanto obbediente e servente al marito. Tanto obbediente al marito. Avesse crudelmente fatti uccidere. Avesse fatti uccidere. Fino alla banalizzazione ottenuta con la semplice cancellazione del vocabolo difficile, oppure con la sua sostituzione. Quello che più conta da un punto di vista stilistico è che il Sercambi non è assolutamente interessato ai rimandi danteschi che punteggiano invece anche quest'ultima novella decameroniana. La matta bestialità del Marchese di Saluzzo diventa semplicemente un matto, e Griselda, tanto graziosa e tanto benigna, diventa tanto graziosa. E con ciò cade anche la possibilità di una efficace ripresa anaforica. Molto abilmente, il Boccaccio alla fine della novella usa infatti l'aggettivo bestiale per chiudere il cerchio e riandare alla matta bestialità con cui Dioneo aveva dato inizio alla sua narrazione. Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.